Cioccolato bianco, zicchinica, Valentia, il maestro. È una terapia di gruppo. È tutta la vita che mi chiedo cosa è giusto o sbagliato. Io il risultato, questa è la mia merda, cioccolato. È diventato un cazzo di supermercato. Soddisfatto, rimborsato, fanculo alla giusta, allo stato. Ribelle, ribolle, il sangue conferma che sono un folle. Mic controller, collegato mentre il tempo scorre. Aio, ascolta, rappa, raggruppa, fumatela tutta, sfrutta prima che qualcuno la risucchia. Ammazza brutta, adolescenza distrutta in aggiunta. La vita ti sbrunca, ne boh, è una giungla. Ogni giornata sembra l'ultima. Fotteresti il mondo perché non comunica e ti giudica una vittima. Stai bene solo con la cricca intima. Questo non giustifica, io la chiamo musica. Ascoltala come si fa, rappa e positività. Da a chi non ne ha, un po' di speranza per chi abita nell'isola. Idola che stimola le mie rime, la mia lingua scivola. Se ho un'opinione voglio esprimerla, imprimerla del tutto. Un insulto, pensieri positivi e negativi che sviluppo. Distrutto, la rappa mi ha cresciuto e sono adulto. Io scesso maestro, io terapia di gruppo. Rime sulla carta, nevo rimbalza, fuoco riscalda, Sardegna che parla. Rappa compatta, guarda o salta, cioccolato bianco su maestro terra sarda. Rime sulla carta, nevo rimbalza, fuoco riscalda, Sardegna che parla. Rappa compatta, guarda o salta, cioccolato bianco su maestro terra sarda. Metti che su un beat d'assalto, come sopra un palco scaldo. Cerco ispirazione tra le storie nate sull'asfalto e poco altro. Cerco chiarezza in ciò che è stato, gente che ho incontrato e poi ho lasciato. Il tempo scorre ed il futuro è già passato e andato. Chiudo il contratto, sulle mani puoi contare chi è rimasto. Il resto ormai è evidente, non è adatto. Poco tatto, finto il fatto. Uno che ha il contatto con questa realtà ne è sopraffatto e segna il passo. E cazzo, ci vuole coraggio, pagato il pedaggio in tanti anni di arrembaggio. Al micro e te la fame il tuo miraggio. Io lo faccio per me stesso e non ne sono ostaggio. Gaggio, da me vuol dire grezzo e non ti do un vantaggio. Ligio il mio dovere, do da sempre il massimo. Tu cos'è che fai per questa scena? Aspetta un attimo. Parlarne boh, serve al dibattito. Ma mentre molti parlano, pochi davvero quelli che si sbattono. Servono radio qui, servono fanzine, servono gente per alzare il livello. Non marche di baggy jeans. Spendi dei soldi, ma cazzo spendili per chi si sbatte per un disco serio e non per vivere in un film. Ci rompono il culo Germania, Francia, Belgio, Olanda. Tu fammi la domanda, chiedimi perché l'Italia sbandi a fanna. Chiediti perché la gente si scogliona se in un pezzo rap da noi non c'è il tipo che canta. Rime sulla carta, nevo rimbalza, fuoco riscalda, Sardegna che parla. Rappa compatta, guarda o salta, cioccolato bianco su maestro terra sarda. Rime sulla carta, nevo rimbalza, fuoco riscalda, Sardegna che parla. Rappa compatta, guarda o salta, cioccolato bianco su maestro terra sarda. Sulla carta, nebo rimbalza, fuoco riscalda, Sardegna che parla. Rappa compatta, guarda o salta, cioccolato bianco su maestro terra sarda.